Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Oggi parliamo della Sicilia. Alcuni anni fa, nel comune di Bagheria, una donna urbanista, dirigente dell'ufficio tecnico del comune, condusse una battaglia non solo personale ma anche, diciamo così, di collettività, perché non la convinceva la trasformazione urbanistica supposta di un immobile dell'ex palazzo delle Poste Italiane della famiglia Lo Iacono, che avrebbe dovuto diventare poi, così, improvvisamente, un nuovo centro commerciale. La cosa puzzava, diciamo così che puzzava. Noi di Radio 24 ne parlammo, ne discutemmo, ci furono delle informative della prefettura che dicevano anche che le ditte interessate in quel momento storico alla costruzione eventuale, cointeressate alla costruzione del centro commerciale, non erano famiglie esenti da vincoli di parentela con famiglie molto molto chiacchierate. Poi improvvisamente di questo urbanista si sono perse le tracce, è scomparso dal radar. Nessuno sa che fine ha fatto. Combatte ancora? La sua battaglia è ancora viva? E noi siamo qui per capirlo. Salve, dottoressa Marino, come sta? Bene, grazie. Allora, dove si trova lei in questo momento? Io in questo momento mi trovo negli Stati Uniti. No, non dica così. Sono trasferita qui e conto di stare qui un anno. Scusi, non è più a Bagheria, nell'ufficio tecnico di Bagheria? No. E come mai? Sono andata via da Bagheria alla fine di ottobre dell'anno scorso. Alla fine di ottobre del 2009? E notti. Quatta quatta, zitta zitta, senza far sapere niente a nessuno. È come il lavoro che ho svolto non è stato... Non è stato mai urlato, in punta di piedi. Senta, sempre in punta di piedi. Esatto, prima di passare al suo profilo odierno, che mi interessa moltissimo, che fine ha fatto quel palazzo delle Poste Italiane? È diventato poi un centro commerciale o no? A quanto ne so, i lavori si stanno svolgendo, sì. Si stanno svolgendo per farlo diventare un centro commerciale? Sì. Quindi lei ha perso la sua battaglia? Ma sa, non era una battaglia mia. Forse in questo riconosco un errore generale, cioè quello di averlo trasformato in una battaglia non personale, ma mia, nel senso che è mia del mio ufficio. Lei però, voglio dire, era un cane da guardia della legalità, come dovrebbe essere ogni buon cittadino. Sì, mi hanno così definito. Ecco. Era una definizione che alla fine non mi dispiaceva affatto. Assolutamente no. Infatti dovrebbero dirlo di tutte le persone oneste, quindi le fa onore. Però, voglio dire, questa personalizzazione in fin dei conti avrebbe dovuto portargli onori ed oneri. Gli onori sicuramente quelli di una cittadinanza che finalmente aveva all'interno dell'ufficio urbanistico, ma poi vedremo che nulla è cambiato perché chi ha preso il suo posto va sullo stesso solco. Insomma, dicevo, la cittadinanza doveva essere, come dire, fiera di avere in lei un baluardo della legalità. Che cosa non è andato per il verso giusto? Ma non è andato per il verso giusto il mio rapporto con la politica. Immagino. Io sono stata per 7 anni a Bagheria un dirigente di contratto. Certo. Pertanto dovevo avere e avevo un rapporto naturalmente privilegiato con l'amministrazione che mi richiedeva la mia collaborazione, il mio lavoro. Certo, ma era un rapporto di fiducia reciproco, se mi permette. Ma quello che le risulta in questo momento, questa trasformazione dell'ex palazzo delle Poste Italiane, di proprietà, ripetiamo, della famiglia Lo Iacono, è ancora di proprietà della famiglia Lo Iacono, e quindi probabilmente, voglio dire, le ditte interessate saranno ancora delle ditte, chissà, forse ancora dubbi o no? Che fossero dubbie, mi permetta, non c'era un dubbio. Ecco, ho capito. Non c'era un dubbio. non possiamo nasconderci dietro un... No, ma infatti la prefettura diceva le ditte interessate. La prefettura ne parlava chiaramente. Esatto, ma oggi è ancora così? Noi non abbiamo mai basato la nostra valutazione su notizie giornalistiche. Certo. Bene, naturalmente certo. Non vivessimo sulla luna, ma abbiamo basato la nostra valutazione sulle informazioni prefettizie che hanno in questo senso per noi un valore. Noi certo, siamo certo. Stati un ufficio che ha prodotto degli atti unici in Italia. Ecco, ma una cosa... Attraverso dei protocolli di legalità che hanno introdotto controlli di legalità e antimafia anche per quanto riguarda le concessioni edilizie. Ecco, dottoressa Marino, un'ultima domanda. Ma lei se n'è andata o l'hanno cacciata? Entrambe le cose. Oggi? Hanno finito col produrre in me un disagio talmente grande che... Non era più possibile la sua permanenza. Possibile andare avanti. E quindi ha seguito, è scappata e ha seguito suo marito negli Stati Uniti? Non sono scappata, ho elaborato il lutto perché io amavo moltissimo il mio lavoro. Sono stata per diversi mesi ancora a Palermo, ho continuato e ho fatto altre cose. Provenivo e sono un libero professionista, quindi è tornata la libera professione, insomma. Sì. Ecco, io la ringrazio di questa chiacchierata, le auguro buon lavoro negli Stati Uniti, spero di risentirla presto in Italia con altre attività di quotidiana legalità all'interno delle pubbliche amministrazioni e non solo. Ringrazio lei, ringrazio in regia Paolo Corleoni e in studio Laura Faggin e vi do appuntamento a domani perché parleremo ancora del comune di Bagheria.